Mamma, non mi aspettare sveglia stasera perché torno tardi, torno tardissimo, vado a ballare. Sì, va bene mamma. Ciao. Ok, mi sento. Bella trap block, Cannibal Beach Records, Milano, Madrid. Farla suonare, tu pensa micro. Mix TMT da drill nei tuoi dream. Strappa quei jeans che sembri più free. Stappa i cincin, Campari, Martini e Gin. Compari amici di chi sa bene che va così. Sì. Mi chiederanno mai rap, se scorro sulla dubstep. Rispondo secondo te, da parte mia che cos'è? Sono barre incastrate sul tempo. Le tue palle non fanno più effetto. E grazie a Dio sono solo zarro. Io il mio paese è un bel po' più tamarro. Certa gente mi fa innervosire, devo fumare un sacco. Perdonami l'onestà e il tabacco. Alla minimale, meno male che non devo guardare. Se lo dovessi fare come le vedrei girare. Da quando Raffa non cammina e non guarda come prima, e pensa a te che lui era il capo dei Lamba. Un STG Raffa, il suono spacca nella cassa. Di nuovo ti acchiappa e spingi nell'iPod in piazza. Questa è roba che piace pure alla tua ragazza. Nesti spacca cosa? Baby spacca nella cassa. Un STG Raffa, il suono spacca nella cassa. Di nuovo ti acchiappa e spingi nell'iPod in piazza. Questa è roba che piace pure alla tua ragazza. Nesti spacca cosa? Baby spacca nella cassa. Muovo le mie mani fanno, muovi le tue mani fanno, devi farlo adesso fallo. Muovo le mie mani fanno, muovi le tue mani fanno, devi farlo adesso fallo. Spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella, spaccanella. Questa va per i miei fra, sabato notte che bra, le strade di sta città spingono il mio pan bra. E chi ad agosto non è mai stato in un posto tipo che so, la villa delle rose oppure il cocorico. In un mondo che veste firmato, ciò che conta è la gris. La mia gente è quella che firma con una i. Se non ti piace non mi importa, né si importa sta roba. Chi fa rap sul dubstep in italiano lo si trova. E anche se non suona è roba nuova, quantomeno, ma se poi funziona e non suona la ballerina. E se è il mercato che decide, beh, che problema c'è? Fin tanto che non decide per me. 80 bpm basteranno per pisciare in testa tutti questi finti rapper. E guarda me, non ho un contratto, non ho spazio, non ringrazio nessuno e non me ne frega un cazzo. Un STG Giraffa, il suono spacca nella cassa. Prima o poi ti acchiappa e spingi nell'iPod in piazza. Questa è roba che piace pure alla tua ragazza. Nesti spacca cosa? Baby spacca nella cassa. Un STG Giraffa, il suono spacca nella cassa. Prima o poi ti acchiappa e spingi nell'iPod in piazza. Questa è roba che piace pure alla tua ragazza. Nesti spacca cosa? Baby spacca nella cassa. Muovo le mie mani fanno, muovi le tue mani fanno, devi farlo adesso fallo. Muovo le mie mani fanno, muovi le tue mani fanno, devi farlo adesso fallo. We'll be right back. Thank you.